Saluto tutte le persone che ci seguono da casa perché non stanno bene e io prego che quella presenza di Dio che era qui con noi, che sia arrivata anche a te, che ci hai guardato, perché Dio è ovunque, perché Lui è spirito. Come te, come te, ce lo siamo detti da gennaio, io ho uscito i miei pennarelli, per tutti i fan dei pennarelli, come te. E come si fa? Cioè, come possiamo in questo 2025 essere più come Cristo? Come si fa? Si fa? Cioè, è possibile secondo voi? E vale per te? Vale per me? O vale solo per gli altri? O vale solo per quello che è accanto a me? Perché lui ha capito, perché lui lo sa, perché lui ce la fa. Per me, sì, sarà un altro bell'anno, abbiamo scelto questo tema, parleremo di tutte queste cose, però... Esaminami, oh Dio, dice Davide nel Salmo 139 alla conclusione, e conosci il mio cuore. Alcune versioni dicono investigami, oh Dio, e conosci il mio cuore, mettimi alla prova e conosci i miei pensieri. E se questo non bastasse, Signore, vedi in me c'è qualche via iniqua, vedi che cosa non sta andando perché non mi fa essere come te, e guidami per la via dell'eternità. Questi versi saranno in questo 2025 la nostra cartina tornasole che ci ricorderà a chi apparteniamo. A chi appartieni? Come si dice a Bari. A chi appartieni? Questi versi sono la tua cartina tornasole che te lo ricorda a chi appartieni, che te lo fa dire con la tua bocca a chi appartieni. Sarà la tua dichiarazione che raddrizza i tuoi piedi sulla strada che devi percorrere. Non so se a voi capita, ma io ho bisogno che i miei piedi si raddrizzino, perché ogni tanto prendono la tangente. E questi versi, questa dichiarazione sulle mie labbra, questo 2025, può essere quella dichiarazione che raddrizza i miei piedi. Sarà la mia, sarà la tua, sarà la nostra arresa quotidiana che ci libera dal peccato che vive in noi. Queste parole sono la nostra libertà dalle nostre paure, dalle nostre emozioni, dai nostri sentimenti, dalle nostre dipendenze, dal nostro peccato. Esaminami, oh Dio. Conosci il mio cuore, mettimi alla prova, conosci i miei pensieri, guarda che cosa non va e guidami per la via che tu hai preparato. Sarà la tua rigenerazione miracolosa, era una delle R che il pastore ci ha dato quest'anno e la vedremo nelle prossime puntate, che ti fa rinascere ad una nuova vita, perché io e te possiamo essere rigenerati e la nostra rigenerazione è miracolosa. Non è una cosa che tu puoi fare da solo, non è una cosa che io posso studiarmi di attuare con le mie forze, è un miracolo che Cristo compie e che lo Spirito Santo compie in noi, che ci fa rinascere a nuova vita. Il titolo del messaggio di questa mattina è Nel suo timore 1.0. Siamo al primo episodio, vi piace? Quest'anno ritorna la lavagna e spenderemo questo 2025 nel comprendere che cosa significa camminare qui su questa terra nel timore del Signore. Investigheremo quella che è la sua parola per essere potenziati dallo Spirito Santo a crescere alla statura di Cristo e poter dire di noi stessi, noi siamo come? E questo è l'obiettivo. E sapete, questo come te non è che è un'invenzione che il pastore Mirko e il pastore Giorgia si sono fermati in preghiera e così si sono inventati, perché è una bella cosa da doverci dire per questo nuovo anno. Non è che se la sono inventati, si dice in inglese out of the blue, giusto perché ho detto acciappartine, voglio farvi vedere che so anche un po' l'inglese, per chi ci segue da d'Oltralpe, ma è una verità che risale a prima della fondazione del mondo e che arriva fino alla fine dell'età presente. Anzi, questa è la verità che il diavolo ha più attaccato e cerca di mettere più in discussione da sempre. Questa verità che siamo come lui. E lo vogliamo vedere insieme, siete pronti? Ci siamo. Abbiamo il nostro Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Sono tre, sono uno, lo sappiamo. È complicato da comprendere per il nostro cervello che ha dei neuroni che non sono infiniti come quelli di Dio, però lo prendiamo per fede. Sono tre, sono uno ed è già questo un miracolo in sé. Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, leggiamo subito. Genesi 1. Poi Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine. Così inizia la storia. Cosa dice tutto quello che studiamo quando andiamo a scuola nella scienza? Che noi siamo come la... No, non lo so se tu sei come la scimmia, io no. Io sono stato fatto a nostra immagine. Io sono stato fatto conforme alla nostra somiglianza e abbiano dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Cioè noi abbiamo dominio sugli animali perché Dio ci ha creato conformi alla sua immagine. Ok? Non siamo una scimmia che è diventata più intelligente. Dio creò l'uomo a sua immagine, verso 27, lo creò a immagine di Dio, li creò maschio e femmina. Dio Padre e Dio Figlio inizia la sua opera e ci crea maschietti e femminucce. Questa è un'altra cosa molto importante. Ha creato il maschietto e ha creato la femminuccia. Magari la femminuccia la facciamo con i capelli lunghi, il maschietto lo facciamo con i capelli a spina. Questa è un'altra verità che è stata, perché oggi possiamo essere quello che vogliamo. Non c'è più un'identità di genere, non c'è più un'identità sessuale. Ognuno fa quello che vuole. Oggi mi sento un gatto. Domani mi sentirò un, non lo so, mi sentirò Vito Marinelli. Dopodomani mi sentirò il pastore Mirko e posso essere quello che voglio, quando voglio, come mi pare e piace. Bugia. Siamo stati creati a immagine e somiglianza del nostro creatore che ci ha fatto maschi e femmina. Verso 28, ascoltate questa parola, Dio li benedisse. Siamo stati benedetti nel nostro essere come Cristo, come Dio, come Padre, Figlio e Spirito Santo, siamo benedetti. Questo è parte della nostra identità, questo è parte di chi noi siamo. Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, rendetela soggetta, dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sopra ogni animale che si muove sulla terra. Però cosa succede ad un certo punto? Siccome noi siamo un po' duri di comprendorio, leggete Genesi 3. E com'è? Come quando arriva a te il serpente, il diavolo. E com'è? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino. Com'è? Dio ha scelto tutti tranne che te. E com'è? Tu, nonostante tutti questi anni che conosci il Signore, sempre sbagli quella cosa. E com'è? E inizia a insinuare una bugia dentro di noi. E la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino Dio ha detto non ne mangiate, non lo toccate, altrimenti morirete. E il serpente disse alla donna, no, è bugia, tu non hai capito, tu non morirai affatto, ma Dio sa, perché Dio è invidioso e sa che nel giorno che lo mangerai i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio. Scusate, ma noi non siamo stati creati a sua immagine e somiglianza. Non ha preso un mucchio di polvere, non ha soffiato un alito di vita e ha messo la sua immagine dentro di noi. Che significa sarete come Dio? Avendo, sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Che cosa è successo? Che Dio ha detto fidatevi di me. Dio ti dice fidati di me, io so il meglio per te. Io ho una piena consapevolezza di ciò che è bene e di ciò che è male. Fidati. Cosa hanno fatto loro? No. Cosa facciamo noi? La disubbidienza. È arrivata. Il peccato non è altro che dire a Dio io non mi fido di te, non ci credo a quello che tu hai fatto, io lo devo fare. Io mi devo rendere come a te. Io devo capire cosa è bene e cosa è male. E secondo voi, da milioni di anni in cui il mondo esiste, noi sappiamo davvero capire e conoscere ciò che è bene e ciò che è male? Abbiamo la capacità e la percezione reale di ciò che è bene e di ciò che è male davvero? Io penso proprio di no. Ed era questo al quale Dio ci voleva proteggere. Era questo al quale Dio voleva che noi ci fidassimo di Lui. E invece noi no. Noi dobbiamo diventare come a te e quindi ci dobbiamo ammazzare, ci dobbiamo odiare, ci dobbiamo distruggere, ci dobbiamo fare guerre, ci dobbiamo uccidere, perché ciò che è bene per me forse è male per te. E questa è la verità, questo è il nostro TG, questa è la storia dell'umanità da milioni di anni. Ma cosa succede? Ad un certo punto Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, lo leggiamo in Genesi 12, chiamano chi? Per fede. Scelgono Abramo. Ci siete? Guardano sulla terra e trovano Abramo. E dicono ad Abramo, Abramo io farò di te in Genesi 12 una grande nazione e ti benedirò. Il desiderio di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo era da sempre essere con noi ed essere noi benedetti dal nostro essere con Lui. E ti benedirò e ti renderò grande, tu sarai una fonte di benedizione, disse ad Abramo. Non sarai solo tu benedetto, ma tu sarai una fonte di benedizione e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Però inizio da te e farò di te una grande nazione. E che cosa succede? Che costituisce il popolo di Israele. E Israele nasce e cresce per essere la dimostrazione che noi siamo stati creati a loro immagine e somiglianza. E dà una serie di prescrizioni a Mosè e al popolo di Israele, che è la legge. E dà la legge a tutti i profeti, a Mosè e a tutti coloro che sono i giudici e i sacerdoti del Vecchio Testamento che troviamo nella legge del Vecchio Testamento. E dà la legge e dice attraverso queste prescrizioni tutti i popoli sapranno che voi siete miei, che voi siete santi e che io sono il vero Dio, che non c'è il Dio Sole, il Dio Luna, che non ci sono queste divinità fatte di oro alle quali ci dobbiamo prostrare, che dobbiamo tenere contente per farci stare bene. Io sono Dio. E vedete cosa dice in Esodo 19. Ora dunque, se ubbidite davvero la mia voce, osservate il mio patto, il patto che io ho fatto con Abramo e Israele attraverso la legge, se osservate tutto questo, sarete fra tutti i popoli il mio tesoro particolare. Noi siamo il suo tesoro particolare. Tu sei il suo tesoro particolare, solo che siccome abbiamo deciso di sapere noi cosa è giusto e cosa è sbagliato, abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo scriva e che ce lo dica e che ce lo spieghi e che ce lo faccia vivere come Cristo comanda, è il caso di dire. E continua e dice poiché tutta la terra è mia e sarete per me un regno di sacerdoti, una nazione santa. E poi continua Perché la storia si evolve, Geremia a un certo punto nel capitolo 31 verso 31 profetizza e dice al popolo di Israele: ecco i giorni vengono, dice l'Eterno, che io farò un nuovo patto con voi. Israele, io farò un nuovo patto con voi e con la casa di Giuda, come, non come il patto che stabilì con i padri il giorno che li presi per mano e li feci uscire dal paese d'Egitto, il patto che essi hanno violato, benché io fossi il loro Signore, dice l'Eterno. Ma questo è il patto che io farò con la casa di Israele dopo quei giorni. Io metterò la mia legge nel loro intimo. Non ci sarà più una legge scritta su delle tavole di pietra con delle prescrizioni che tutti devono seguire e che devono andare a leggere qualora non se ne ricordassero, ma una legge che sarà scritta nel nostro intimo, perché noi siamo come Lui. Io metterò la mia legge nel loro intimo, la scriverò sul loro cuore. Io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Non insegneranno più a ciascuno il proprio compagno e il proprio fratello dicendo: conoscete l'Eterno, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. E io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Che cosa succede? Dopo aver mandato la legge, a un certo punto Dio Padre, Figlio e Spirito Santo si fermano e dicono: bene, è arrivato il momento che Cristo scenda per creare un nuovo patto che non potrà essere più annullato, che non è fatto del sangue di ogni animale che possiamo spargere da qualche parte, perché Lui ha un glorioso sangue che abbiamo cantato, che tu hai cantato, che ha vinto, che ci libera. E Gesù dice di se stesso in Matteo 5: non pensate che io sia venuto per abolire la legge o i profeti, anzi io sono venuto per portare a compimento. Gesù è venuto per completare l'opera che Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo avevano iniziato in Abramo con il popolo di Israele e con la legge, e compierla in Lui. E compierla in me, e compierla in te, e compierla in noi. E dopo aver compiuto tutto questo, cosa succede? Se ne torna in cielo. Ebrei 1. Dio, dopo aver molte volte, in molte maniere, parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato i mondi. Per tutti gli UFO freak in mezzo a noi, sono stati creati pure da Gesù. Chiunque deve arrivare da qualche altra parte, se arriverà, l'ha creato Lui. I mondi ha creato. Il quale, essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. E che cosa ha detto Gesù prima di andarsene? Giovanni 14: io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro consolatore, perché stia con voi per sempre lo spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. E Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo hanno mandato il Figlio, hanno mandato lo Spirito. E lo Spirito Santo è sceso. E Gesù continua, dice: io vi ho detto queste cose, stanno ancora con voi, Giovanni 14, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà. Ci insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che io vi ho detto. Ci insegnerà ogni cosa. Non sai come resistere alla tentazione? Lo Spirito Santo te lo vuole insegnare. Non ti ricordi chi sei? Non hai capito bene se Gesù ti ha scelto proprio a te, nonostante tu fai un po' Lo Spirito Santo ti vuole ricordare chi sei. Per questo l'ha mandato, per questo è sceso, per questo è qui. Ma quando sarà venuto il Consolatore, Giovanni 15, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. Lo Spirito Santo in noi testimonia di Cristo, dello splendore della sua gloria, della maestà della sua potenza. E vive dentro di noi, vive dentro di te, scritto nel nostro cuore, scritto dentro di noi. Giovanni 16, pure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Verso 8, quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quando lo Spirito Santo è sceso, quel giorno della Pentecoste, per la prima volta in Atti degli Apostoli, come leggiamo nei capitoli iniziali del libro, ha convinto il mondo in quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. E quando il mondo è convinto al peccato, alla giustizia e al giudizio, la Chiesa nasce. Pennarello blu. La Chiesa nasce. Quando Dio Padre e Dio Figlio hanno scelto Abramo, Israele nasce. Quando Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo mandano lo Spirito, la Chiesa nasce. E quel popolo e quella nazione fatta di un'unica tribù diventa il popolo e la nazione di tutte le tribù della terra. E infatti lo leggiamo, che tutte le tribù si piegheranno davanti a quello che Gesù farà quando lui tornerà. Ora, siamo convinti che la nostra conoscenza del bene e del male non è sufficiente a vivere la nostra vita per dimostrare che siamo come Lui? Perché lo Spirito Santo è sceso e ha costituito noi che siamo la Chiesa e ci ha convinti al peccato, alla giustizia, al giudizio. Oppure non siamo proprio convinti? Perché se non siamo ancora convinti che il mio senso di giustizia non è giusto, che il mio senso di sapere cosa è bene e cosa è male non va bene, lo Spirito Santo ci vuole convincere, perché per questo è venuto. E se io non sono convinto che quella tentazione mi fa male, e se io non sono convinto che quel peccato che continuo ad avere non va bene, lo Spirito Santo mi vuole convincere. Lo Spirito Santo ti vuole convincere. Lo Spirito Santo freme per convincerti in quanto al peccato. Lui freme per convincerti in quanto alla giustizia. Lui freme per convincerti in quanto al giudizio. E fatemi dire una cosa, se siamo qui e abbiamo accettato Gesù nel nostro cuore, lo abbiamo fatto perché lo Spirito Santo ci ha convinto in quanto al peccato. Cosa ne abbiamo fatto di quella convinzione che lo Spirito Santo ci ha dato nel momento in cui abbiamo avuto rivelazione di Cristo nella nostra vita? L'abbiamo spenta? L'abbiamo messa nel cassetto? Lo Spirito Santo brucia di una passione che divampa come un fuoco che vuole consumare il peccato che ci avvolge. Purtroppo noi invece pensiamo che la giustizia di Dio non corrisponda alla compassione che Lui ha per noi. Noi pensiamo che la giustizia di Dio, nel momento in cui noi ci sentiamo peccatori, corrisponda a un giudizio sulla nostra vita, ad una condanna sulla nostra vita. E invece la giustizia di Dio, che è la sua giustizia, è uguale a compassione per noi, perché per quello ha mandato Gesù. È uguale a misericordia. E come Fabio ha letto nel momento di lode adorazione, non ci eravamo organizzati, corrisponde al suo correre verso di noi, correre verso di te. Luca 15, mentre era ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione e corse, gli si gettò a collo e lo baciò. E il figlio gli disse: io non sono degno, perché io ho avuto rivelazione che sono un peccatore. Lo Spirito Santo mi ha convinto che io ho peccato, non posso stare con te, non merito nulla di te. E il padre che cosa fa? portate qui la veste più bella e rivestitelo, mettetegli un anello al dito, dei sandali ai piedi, portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo, mangiamoci e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Sempre puoi ritornare dal Padre. Ogni volta torneremo da Lui. E lo Spirito Santo che vive dentro di noi, che è stato sigillato nel nostro cuore, che è stato inciso nel nostro cuore, ci convince al peccato e alla giustizia che è la sua e al giudizio che lui avrà quando lui tornerà, e lo vedremo a momenti. Lo Spirito Santo, dice Romani 8, attesta egli stesso insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Lo Spirito Santo attesta con il nostro spirito che siamo figli suoi. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio e coeredi di Cristo, seppure soffriamo con Lui, affinché siamo glorificati con Lui. Cosa significa questo? Che siamo un work in progress. Ed è qui che noi ci troviamo. Nella linea del tempo, da quando il mondo è stato creato, noi siamo qui. Siamo nel nostro work in progress, che ci porterà nell'essere come Lui ad incontrarlo. Ora, che work sei tu? Esaminami, oh Dio, e conosci il mio cuore. Chiediamocelo. In questo 2025 ci chiederemo, che work sei tu? Sei un work in standby? O sei un work in progress? E la risposta a questa domanda non deve giudicarci, deve dimostrarci la compassione che Dio ha per noi. E lo leggeremo dopo in uno dei versi. È un progress nel timore del Signore quello che noi viviamo? Quello che noi sceglieremo in questo 2025 sarà un progress di work nel timore del Signore? O sarà un progress a modo tuo? No, un po' come è successo qua, a modo nostro. Alla fine quest'albero poi non è poi malvagio, sembra bello. Beh, vedi, i frutti sono belli, sono gustosi secondo me. Secondo me vale la pena che lo dobbiamo provare. È un progress che rispecchia la parola di Dio oppure è un progress che si preoccupa di piacere agli altri e agli uomini piuttosto che piacere a Dio? Se dunque uno è in Cristo, dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. Tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Lo Spirito Santo è sceso e in Cristo ci ha riconciliati con Dio e ha affidato a noi un ministero della riconciliazione affinché tutte le famiglie della terra di cui Dio ha parlato ad Abramo che sarebbero state benedette in lui ora possono essere davvero benedette in lui. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe. Dio non ti ha imputato le tue colpe. Perché tu te le devi imputare? Dio non le ha imputate. Dio ha mandato Cristo e lo ha sacrificato. Perché tu potessi non essere più colpevole. Quindi perché fai il peccato? Perché continui a fare quello peccato? Se il peccato è stato inchiodato alla croce e tu hai vinto e la morte non ha più potere su di te. Non imputando agli uomini le loro colpe, è ammesso in noi la parola della riconciliazione. Uno Pietro, ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Sei stato comprato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, Noi che prima non eravamo nulla, ma ora siete il popolo di Dio, che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. E sapete qual è la cosa straordinaria di quando lo Spirito Santo scende? Che lo Spirito Santo è il Signore. E dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è libertà, Corinzi. E l'Apostolo Paolo scrive questa lettera ai Corinti che stavano messi malissimo, stavano messi peggio di noi. Quindi ci possiamo consolare su questo. E lui, vedete che cosa gli dice? Ora il Signore è lo Spirito. E dove c'è lo Spirito del Signore, lì c'è la libertà. E noi tutti, contemplando a viso scoperto, vi fate schifo? Siete completamente depravati come Chiesa? Non avete capito niente di quello che è l'opera di Cristo in voi? Potete contemplare a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore. Per essere trasformati. Per essere trasformati, per non rimanere nella condizione in cui siamo, ma per essere trasformati nella sua stessa immagine, di gloria in gloria, secondo il Signore che è lo Spirito. E tutto questo work in progress continuerà fino a quando il Signore Gesù non ritornerà. E quando Lui ritornerà, per l'eternità noi staremo con Lui. Per l'eternità noi staremo con Lui. E quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti i santi angeli, Matteo 25, allora si siederà sul trono della sua gloria e tutte le genti, anche chi non ci crede, tutti saranno radunati davanti a Lui ed Egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dai capri. E lì ci sarà il giudizio. Ma noi siamo nel tempo della giustizia, dove la misericordia di Dio è stata sparsa per noi. E allora apparirà dal cielo, Matteo 24, il segno del Figlio dell'uomo. E tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole nel cielo con potenza e gloria. Ed egli manderà i suoi angeli che con gran suono di tromba radunare gli eletti dai quattro venti e dai quattro angoli dei cieli. 2 Pietro. Perciò, carissimi, aspettando queste cose, l'Apostolo Pietro scrive a tutte le chiese, scrive anche a noi, aspettando queste cose, fate di tutto per poter essere trovati agli occhi suoi immacolati e irreprensibili nella pace. Mi piace il verso 15. E considerate che la pazienza del nostro Signore è per la vostra salvezza. C'è una pazienza per la nostra salvezza. C'è una pazienza, siamo nel tempo della pazienza per la salvezza delle persone che ci circondano. Come anche il nostro caro fratello Paolo ve l'ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo gli fa in tutte le sue lettere, parlando di questi argomenti. In esse ci sono alcune cose difficili da capire. È difficile da capire che dobbiamo morire a noi stessi. È difficile da capire che possiamo essere come Lui. Non è facile, non è semplice. Ma noi non siamo quegli uomini ignoranti e instabili che torcono, come anche le altre scritture, alla loro propria perdizione. Non siamo di quelle persone. Noi, sapendo già queste cose, stiamo in guardia, verso 17, per non essere trascinati dall'errore degli scellerati e scadere così dalla vostra fermezza, ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo come te, come Lui. E nel suo timore tutto questo è possibile. Quando noi abbiamo timore di Dio c'è vita, c'è sicurezza, c'è rifugio, c'è sazietà, c'è saggezza, c'è conoscenza, c'è umiltà, c'è ricchezza, c'è gloria. Nel timore del Signore c'è il principio della scienza. Ho segnato tutte le parole dei versi che parlano del timore del Signore, che cosa producono in noi. C'è intelligenza, c'è avvenire, c'è speranza, c'è verità, c'è giustizia. nel timore del Signore c'è odiare il male. E quella tentazione che arriva, e quel peccato, e quella dipendenza che così non riesci a farne a meno, inizi ad odiarla. Perché tu sei preoccupato di piacere a Dio e hai timore di Lui. Perché tu non hai paura di Dio, hai timore del Signore. Sapete, chi ha paura teme un castigo e teme un giudizio e si nasconde da Dio. Il timore del Signore, invece, ci fa aprire alla presenza di Dio. L'uomo ha avuto paura quando ha disubbidito e si è nascosto, ma Dio ha scelto comunque Abramo nel suo timore, perché Abramo si è aperto a lui. E io lo so che quando ci facciamo schifo perché abbiamo peccato, ci vogliamo nascondere. Questa è una realtà. Questa è una realtà. E io lo so che tutte quelle cose che sono ancora peccato e dipendenza in mezzo a noi, le viviamo perché corrispondono a quelle aree dove noi ci stiamo nascondendo da Dio, dove non vogliamo che Lui possa entrare, perché abbiamo paura che Lui ci possa giudicare e che Lui ci possa scartare. E quindi ci rifugiamo e ci nascondiamo in queste cose. E viviamo nella paura del suo giudizio piuttosto che nel timore del suo amore. Fratelli e sorelle, non è così. E Giovanni lo dice: chi riconosce pubblicamente che Gesù è il figlio di Dio, Dio rimane in lui ed egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore, e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in lui, e in questo l'amore è reso perfetto in noi, che nel giorno del giudizio abbiamo fiducia, perché quale egli è, tali siamo anche noi. Nell'amore non c'è paura, anzi l'amore perfetto caccia via la paura. Perché chi ha paura teme un castigo, e chi ha paura non è perfetto nell'amore, ma noi lo possiamo amare perché Egli ci ha amati per primo. La verità che abbiamo abbracciato in Cristo Gesù dovrebbe portarci a temere il Signore e ad avere paura di essere lontano da Lui. Questo dovrebbe accadere. Questo dovrebbe portarci ad esporci a Dio senza nasconderci, perché viviamo nel suo timore e desideriamo piacere a lui piuttosto che agli uomini. E sappiamo che nel suo timore, nel nostro aprirci a lui, lui caccia via quella paura, perché lui ci accoglie. E quel figlio è corso dal padre, puzzava, faceva schifo, puzzava di maiali, e il padre lo ha baciato con i pezzi di fango sulla faccia, dove c'erano gli escrementi di questi animali. Il padre non ha avuto vergogna, e Gesù non ha vergogna di te. Lui ti ama davvero. Cosa accadrà in questo 2025? Invito la band già ad arrivare. Affronteremo come rinascere alla nostra nuova natura in Cristo. Ricorderemo come rompere con il passato. Impareremo a relazionarci a Cristo ogni giorno. Sceglieremo di riconoscere la sua bontà verso di noi per dichiarare a Cristo che io voglio essere come te. Questo vivremo in questo 2025. Esaminaci, oh Dio. Investigaci. Conosci il nostro cuore, mettici alla prova. Vedi, in noi c'è qualche via iniqua, c'è qualcosa che non va, perché non la vogliamo. Noi vogliamo andare verso l'eternità, vogliamo essere un work in progress come te, fino al giorno in cui ti incontreremo e saremo faccia a faccia con te. E io sono davvero grato della nostra Chiesa. Non siamo grati della nostra Chiesa. Non siamo grati di poter riflettere in questo anno su tutto questo e crescere insieme alla statura di Cristo, Efesini, finché tutti arriviamo all'unità della fede, finché tutti arriviamo alla pienezza della conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini compiuti. Nessuno può essere lasciato indietro. Tu non devi rimanere indietro, perché lo Spirito Santo ha ispirato i nostri pastori questa verità per te, per me, per noi. E insieme possiamo arrivare, verso 13, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più dei bambini, affinché la smetti di fare il moccioso. Te lo dico così. La smetti di fare la mocciosa, sballottata e portata qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini e per l'astuzia delle loro arti seduttrici dell'errore. Ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. E noi tutti che siamo il suo corpo, ben collegati e ben connessi mediante l'aiuto fornito da tutti quanti noi che siamo delle singole giunture, possiamo trarre il nostro sviluppo nella misura del vigore tuo. La Chiesa ha bisogno di crescere nella misura del vigore tuo, perché tu sei come Cristo e stai derubando la Chiesa, se non lo vivi, di una benedizione che è stata promessa qua, che è stata rifatta qua, che è stata ridata qua e che fa ogni giorno Dio per te. Alziamoci in piedi. Mentre ci alziamo e siamo in piedi, di' alla persona accanto a te: vale anche per te. Girati dall'altra parte, dillo pure all'altra. E ora ripeti dopo di me, ad alta voce, ripetete dopo di me ad alta voce piena: vale soprattutto per me. Ti devi convincere. Come diceva mia nonna, ti devi fare il lavaggio del cervello. Ripeti di nuovo: vale soprattutto per me. Signore, grazie, perché tu sei ricco in misericordia. Grazie perché tu ci prendi dove noi siamo e trasformi la nostra vita, perché sei un fuoco consumante e inarrestabile che nessuno può fermare. E noi vogliamo arrenderci e vogliamo dichiarare le parole del coro e del brano che stiamo per cantare, arrendendoci a te, dicendo che abbiamo bisogno di te, Spirito Santo, dicendoti che ti amiamo e che siamo tuoi. Forza Chiesa.